Mettere il bavaglio non si può costantemente prendere per buona ogni piccola eversione. Repressione delle masse con le stesse armi usate per convincere a lasciare stare e non manifestare, contestando le parole dette mai poi applicate, non si fa che rallentare quegli intenti curatori e tutto tace. Lo so fa strano, ma tutto tace. Perché ci alziamo la mattina per trovare il nostro spazio in questa società malata che ti ignora e ti crea il tuo orticello di progetti, dando acqua a tutti i giorni e poi qualcuno lo calpesta allegramente. Non è questo il mare aperto, disse un giorno il pescatore al figlio appena nato e mai voluto. E tutto tace, e tutto tace. Sì, lo so che sembra strano, ma tutto tace. Perdessi nel deserto dopo giorni di cammino senza sosta sotto il sole che ti cuoce impietoso, cosa cercheresti ansiosamente ovunque all'orizzonte, ogni secondo e ogni minuto che rimane? Sì, proprio l'acqua che sostenta la tua vita sulla terra e te la toglie come fossi in punizione. Perso la fiducia nella gente, i loro modi strani per farsi valere, in una corsa senza sosta, arranco io che ho le ginocchia stanche a forza di guardare questa pratica inusuale. E un po' sorrido perché vedo chi si affanna per avere il suo angolino sulla spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga, mentre qualcuno sta cercando ancora l'acqua e non capisce che ormai non ce ne sta più per lui. Ma qualcun altro caga comodo sul cesso, scaricando poi due volte per non farlo sembrar brutto. Insomma, c'è chi non ha un cazzo e c'è chi ha tutto. E tutto tace, e questo è giusto, e a tutti piace. Io non capisco perché più si tratta male una persona, più la stessa si vorrebbe stevitare. Vorrei capire perché dicono che il mondo sta finendo, quando il mondo è finito già da un pezzo. Veniamo tutti alle favole dei nani, Cenerentola e i porcellini. Perché non credere anche a me?